GR Europa. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con GR Europa. Oggi in esclusiva per noi l'intervista a Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo. Con lui abbiamo parlato di crisi, disoccupazione, accordo sul bilancio comunitario e anche di sentimenti anti-europei che serpeggiano in numerosi paesi, tra cui l'Italia. Ma per cominciare abbiamo chiesto a Martin Schulz il suo personale augurio per il 2013 all'Europa e per questa prima domanda Schulz ha scelto di rispondere in italiano. Sentiamo. Spero che il 2013 sia migliore del 2012, in particolare per quei paesi dell'Unione Europea in cui i giovani soffrono a causa della disoccupazione come l'Italia. Serve più lavoro. Con il lavoro che speranza per un futuro migliore. Tutte le generazioni hanno bisogno delle energie dei giovani per la stabilità, la dignità e la costruzione di un avvenire più giusto. Presidente Schulz, per il presidente dell'Eurogruppo Juncker la crisi non è ancora alle spalle. Pensa anche lei la stessa cosa? Condivido la visione di Jean-Claude Juncker. Non siamo fuori dalla crisi, ma ci sono segnali di speranza. Tuttavia, dobbiamo continuare nella combinazione tra disciplina di bilancio, con investimenti strategici nella crescita e nella lotta alla disoccupazione. L'errore degli ultimi anni è stato tagliare unilateralmente i bilanci pubblici, anziché combinare questo taglio con investimenti necessari nella crescita. Ora dobbiamo rilanciare il pacchetto crescita da 120 miliardi, varato a giugno, lottando contro la speculazione e riducendo i tassi di interesse per i paesi in difficoltà. In quel caso possiamo vedere la luce in fondo al tunnel. Ma dobbiamo seguire quella strada, senza pensare che il rigore sia l'unica soluzione per uscire dalla crisi. È fiducioso su un accordo a febbraio in merito al bilancio europeo? È per me imprevedibile al momento. Gli interessi eterogenei dei 27 paesi non potevano essere bilanciati a novembre. Non so se il governo italiano potrà fornire conclusioni a pochi giorni dalle elezioni. Se ci sarà un accordo tra i 27, dipenderà, per noi Europarlamento, dal contenuto stesso dell'accordo. Noi vogliamo abbastanza denaro per sviluppo, educazione, ricerca, riforme agricole, coesione, giovani, scambi educativi. Questo è il contenuto che vogliamo. Se però i 27 leader continueranno nella loro ideologia di tagliare spese dovunque e indiscriminatamente, compreso nel bilancio europeo, così strategico, ci sarà una maggioranza all'Europarlamento che rifiuterà questo bilancio. Il presidente della Commissione, José Barroso, da Dublino, si è pronunciato contro chi accusa l'Europa di imporre l'austerity nei Paesi membri. Qual è il suo messaggio alle forze politiche che usano l'Europa come arma di attacco anche all'interno di campagne elettorali? Non è l'Unione Europea che impone l'austerità. Il deficit europeo non è deciso a Bruxelles, ma a Roma. Così anche per le misure applicate in Italia. Su un punto capisco gli italiani. L'errore di molti leader europei è stato di credere che solo con i tagli nella spesa pubblica si poteva recuperare fiducia. Capisco la rabbia dei cittadini, ma non siamo stati noi a decidere il bilancio di Mr. Berlusconi negli ultimi 10 anni. E con l'ultima risposta del presidente dell'Europarlamento Martin Schulz si chiude questa edizione di GR Europa, condotta in studio da Sergio Nava. Un grazie a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24 e Il Sole 24 Ore. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.